Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Puntata numero 50! 50! Emozione! 50 puntate insieme! Cos'è? Cos'è? Cioè 50 cene, 50 puntate, 50 volte che le persone sono andati online a cliccare, vediamo che ha fatto quel pazzo del Bacco con i suoi ospiti alla cena dei regini questa settimana. Bravi, continua così, rilassati, il Bacco.it per guardare le puntate precedenti e anche ascoltare questa versione audio e versione in video, esattamente, perché sono troppo emozionati, perché 50 cene, ormai siamo vicini all'anno, ai 100 kg, eccetera. Ragazzi, piano che Pino, il mio medico, ascolta e non bisogna... Meglio che non veda la cena di oggi. Ciao Pino. Ti ricordi di quel periodo in cui eravamo io, tu, Panda e Poi ne parliamo. Ragazzi, grande settimana assieme. Perché uno dice, ma cosa fa quel pazzo del Bacco? Solo la cena? Invece no, faccio altro nella mia vita, a parte dormire. Faccio, ad esempio, il live di Camelot che c'è stato questa domenica, esattamente, siamo stati tutti assieme, abbiamo improvvisato dei personaggi che vivono le loro avventure nel fantastico reame di Camelot e sono successe varie cose imprevedibili, no? Cosa non è successo? Non è successo che... che nel senso che qualcuno non è morto. Esatto, perché diciamo che le avventure si sono susseguite in una maniera abbastanza frenetica. Cioè c'era un messaggio da decifrare e non l'hanno fatto, c'era una... Bravo! Adesso abbiamo dovuto affrontare un sacco di problemi, però pazzi... Però facendo una strage. Poi... Pazzi, invasioni, incendi... La battaglia, incendio anche reale, perché questi pazzi mi hanno scatenato un incendio nel corridoio dell'house, ragazzi. Ma lo vedete cos'è la nuova dimensione dell'avventura regina? Perché è questo? Alto è 3D, no, qua andiamo, cioè, vieni, pacchi incendio, cioè... No, uno dice, ma sai perché? Perché c'erano i bardi che hanno fatto un'esibizione live con una canzone in metà del momento interrotta 40 volte, perché questi bardi iniziavano, abbiamo preparato uno spettacolo per Camelot e arrivava qualcuno, no, c'è un attacco, andiamo, abbiamo preparato uno spettacolo per Camelot, e gli altri, no, abbiamo, che c'è un incendio di là, cioè, hanno ripetuto 4-5 volte lì l'inizio di questa canzone, che c'è la fine, con la bellissima frase finale in cui Camelot brucia. C'era, e poi è successo veramente, perché mi hanno dato fuoco all'ingresso dell'house. Perfetto, ragazzi, sì. Cosa, perché bisogna perdersi queste perle, cioè, però abbiamo fatto anche altro, ad esempio il bellissimo concerto con gli Alba di Morrigan, The Girls Fingers e Roberto Iero, che hanno suonato qua fuori in una situazione molto particolare. Cioè, vogliamo ringraziare gli Alba di Morrigan che ci guardano da casa, vogliamo ringraziare i North Fingers che ci guardano da qua, perché sono qua, e anche Roberto Iero che è a casa sua e sta guardando la puntata sul suo computer. E allora, quanto è stato bello, ragazzi, emozionante. Voi da artisti, cosa vuol dire suonare nel giardino dell'house? Suonare vicino a una fontana piena di candele. Una fontana piena di candele, non capita tutte, penso che solo il prossimo pochi, passo è suonare di fronte un incendio. Vedi, noi ci abbiamo provato. Stiamo lavorando per voi. Stiamo lavorando a questo, ragazzi. E poi che succederà d'altro di importantissimo? Il 7 luglio il Tanabata, festeggiato anche quest'anno all'Aus. Apriamo l'Aus per festeggiare la festa di quella che si potrebbe dire la festa, diciamo, dei sogni, dei buoni propositi. Deve essere innamorato. Permettiamo alla gente di venire ad attaccare il loro buon proposito all'albero dell'Aus, a fare una serata di giochi, di sushi, di cibo, di maid che serviranno questo, perché faremo all'interno di una saletta un vero e proprio maid caffè. Quindi io mi siedo qua, viene la ragazza bellissima vestita da maid che mi dice: padrone, cosa ho bisogno? Goshishin-sama. Quello che ha detto lui, però non lui, lo dice una ragazza bella. Quindi voglio dire, cioè, è imperdibile questa situazione. I maschietti mi chiederanno, ma anche le femminucce, perché è una tradizione, non è un maschilismo. No, cancelliamo sto pezzo. No, è un tipico, è un è una cosa tipica della cultura giapponese, quindi anche molto bello. Ma i caffè sono nati parecchi anni fa e il primo ha creato un enorme scalpore ma anche in curiosità. Perché praticamente i clienti appena sono entrati in questo locale si sono trovati una schiera di ragazze cinema made che si erano leggermente inchinate e hanno dato il benvenuto ai loro padroni. Fantastico. Fantastico. Si sono scandalizzati per questo i giapponesi. No, scandalizzati, anzi, per la cultura giapponese. È un gioco di ruolo, di interpretazione di una governante, di una, diciamo, una casa vittoriana. Ma sì, ragazzi, comunque poi lo vedremo dal vivo, che è anche più interessante, perché spiegato come sempre vale molto poco. Questo sabato ci viene a trovare Marco Merrini, Maghi Merrino, che verranno a suonare assieme ai Secret Fat, quindi altra serata di grande musica house, grande, speriamo, grande musica house, qualche faccia dubbio, no, è bellissimo perché sarà una serata sicuramente divertente. E quindi ragazzi, il back.it per vedere tutto il calendario di luglio dei prossimi eventi all'house, perché se anche tu vivi nell'immaginaria città di Reggio Calabria, se la tua vita è talmente vuota da non avere nulla da fare o comunque hai ancora il gusto del bello, è qui che devi venirci a trovare e stare assieme a noi. Torniamo dopo un piccolo spazio musicale con l'angolo delle notizie che ti piaceranno tantissimo. A tra poco. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Adesso presentiamo l'ospite di questa settimana, un gruppo regino, l'abbiamo incontrati a Reggio in occasione di un loro concerto, ci hanno risposto a un paio di domande, gentilissimi, fedelissimi anche all'Ausi, le North as Fingers. Vediamo la loro intervista, sono talmente rimasti attaccati, c'è stata talmente tanta amicizia che ancora sono qua, cioè non riesco più a liberarmi. Ovviamente scherzo. Ragazzi, video con l'intervista, è successo quasi di tutto. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Stavolta abbiamo con noi ospiti Lenore è dal 2010 attivissimi nel panorama regino, ma non solo, con le esperienze che hanno avuto ultimamente in giro, e parleremo anche di questo. Intanto, per chi non vi conosce, potete presentare il progetto di Lenore, il vostro stile, in due parole. Allora, noi siamo nati, come già detto, nel 2010, diciamo che il progetto nasce da me e Patrizio principalmente, poi altri componenti sono subentrati in seguito. Io e Patrizio ci siamo conosciuti sempre in ambito musicale, perché io già mi esibivo in live con un gruppo di cover acustiche, poi Patrizio mi ha sentito, diciamo, gli è gustato il metodo, diciamo il modo in cui cantavo, e quindi abbiamo pensato di lavorare su questi inediti che io già avevo composto quando ero più piccolo. Musicalmente parlando, il progetto Lenore è semplicemente Federica Catalano, che è Lenore in arte, e in pratica lei esprime le sue sensazioni molto complicate, che principalmente sono le sensazioni di una ragazza adolescente, perché Federica, quando ha iniziato questo progetto, era un adolescente, ancora aveva 14 anni, molte canzoni addirittura di quando aveva 12 o 13 anni. E praticamente lei aveva questo suo modo molto particolare dato dalla sua voce, perché il nostro genere alla fine è molto definito dal timbro di Federica. Noi infatti diciamo che se non ci fosse un'altra cantante non ci sarebbe il nostro genere, ok? Perché proprio il genere di Federica determina il sound del CD, dei nostri pezzi. Quindi abbiamo semplicemente fatto questo: Federica, le sue canzoni, le sue chitarre, noi le abbiamo arrangiate, abbiamo costruito questo castello intorno a questo trono, ok? Che diciamo Federica Catalano è il suo... In quanto, diciamo, regina dei Lenore. Sì. Lenore, bellissima. Lenore. Ragazzi, diamo subito un riferimento a chi vi sta cercando sul web in questo momento, che ha visto i primi minuti di intervista e si sta scatenando. Dove posso trovare? Praticamente ci sono sia il classico Facebook, che per quanto ormai triste, però è quello il nostro punto di riferimento, facebook.com/Lenore Sfingers, Oppure www.leonoresfinger.com, che è quello più bello, quindi andate a vedere quello se proprio volete vedere una cosa. E poi oppure su YouTube vedrete video, live, cose varie, curiosità sulla band, un po' di tutto. Ragazzi, voi tornate da poco da un'esperienza che vi ha portato in viaggio a conoscere altre realtà. Cosa avete portato con voi da questo viaggio? Se ci sono aneddoti di viaggio, esperienze, come è stato il confronto con una scena diversa da quella regina? Allora, no, questa è la nostra seconda uscita fuori Reggio. E noi ci siamo accorti di due cose, almeno io personalmente credo che gli altri siano comunque. Prima cosa, che l'umiltà delle nostre parti, l'umiltà e la simpatia paragonata a quella degli indigeni di quei posti è tutta un'altra cosa. Cioè, infatti siamo stati veramente simpatici a chiunque. Beh, questo è stato bello, abbiamo stretto bellissimi rapporti di amicizia che perdurano tuttora, ci sentiamo, organizziamo e abbiamo incuriosito tanta gente a venire qua a trovarci, a suonare qui, quindi a creare questi ponti. È stato molto bello, è stato quasi come far scoprire che Reggio Calabria, un po' il sud, non è soltanto un deserto, ma c'è qualcos'altro. E abbiamo avuto un bel riscontro, credo, vabbè, perché facciamo qualcosa di particolare, quindi al di là di come lo facciamo è qualcosa che fortunatamente, almeno per ora, non ha altri gruppi simili, quindi la gente è di certo incuriosita, poi c'è chi piace, chi capisce, chi non capisce, chi non piace. È che va quello un po' in tutto. Il vostro stile musicale in generale riprende spesso il tema della decadenza, che assomiglia anche molto, possiamo dirlo, alla società attuale. Cos'è la decadenza per un artista e la decadenza per i Lenor? È una maniera per, tramite l'arte, accarezzare la decadenza e quindi affrontarla? La decadenza si sconfigge così tramite l'arte, oppure cosa rappresenta per voi? Allora, decadenza per i Lenor e poi in generale, diciamo che è un concetto troppo vasto per essere trattato, diciamo, con poche parole. Però posso dire, per quanto riguarda le norche, secondo me all'interno di ogni persona c'è decadenza. I momenti negativi sono decadenza, come anche la storia dei momenti negativi, delle riprese positive. Anche l'uomo ha questi tipi di momenti. E secondo me, per quanto riguarda le mie canzoni, che derivano appunto da delle sensazioni, dagli spunti personali, decadenza è questo, dei momenti che mi hanno segnata e soprattutto dei momenti appunto negativi, perché sennò non si parlerebbe di decadenza. Però secondo me è come il concetto di morte, cioè il concetto di morte che ci fa apprezzare quello che c'è prima, ovvero la vita. Quindi con il concetto di decadenza secondo me si può arrivare anche a un concetto superiore che ci aiuta a affrontare la vita in modo migliore, che è quello invece del fare qualcosa contro la decadenza, fare qualcosa di positivo non soltanto per la propria vita privata ma anche appunto per la società. Quindi sì, diciamo che l'arte può essere considerata un metodo abbastanza efficiente se è fatta bene, se è promossa anche dalla società. È una cosa, sarebbe una cosa fantastica, cosa che a Reggio diciamo che potrebbe esserci molto di più, perché noi possediamo delle opere, anche a Reggio, non tutti lo sanno, che però sono dei monumenti abbastanza importanti. Abbiamo un bellissimo museo, se vogliamo parlare proprio dal punto di vista sociale, ecco. Quindi secondo me noi potremmo fare di più come persone collettivamente. Quindi in generale anche il Regino Singolo, diciamo, al di là dell'artista, proporre sì, questa... Prima di parlare di artista bisogna parlare di individuo, proprio come soggetto che sta all'interno della collettività, della società. Non si può parlare dell'artista, perché se vogliamo proprio parlare di artista, non tutti possono essere considerati artisti. Oggi noi consideriamo artista una persona che magari, non lo so, si fa un gruppo, si crea un gruppo e magari la chiamiamo, oppure che si suona la chitarra, ridendo, queste cose un po' che diciamo. Guarda, ti dico che nemmeno io mi posso considerare artista. No, cioè, artista è un concetto molto, molto molto molto alto, davvero. La genialità è una cosa davvero che per me diversa, è un po' irraggiungibile. Però quindi non si può parlare del singolo artista, bisogna parlare, diciamo, in generale. generale delle persone? In generale, perché prima dell'artista viene la persona, l'individuo. Tu lo scintilla. Io per me l'arte è qualsiasi cosa, ok? Che sia poi geniale, o me è qualsiasi cosa che nasce dal cuore, ok? E secondo me basterebbe che tutti, nella propria sincerità, ok? Perché uno può anche dire o di apprezzare soltanto, quindi di godere dell'arte, o semplicemente di riconoscere il proprio posto, la propria piccolezza, e dire io sono qua e non posso spingermi oltre. Quindi niente, per me il senso di arte, e sì, sarebbe bello che tutti comunque potessero dare, o volessero dare, insomma, il proprio contributo a crescere, perché poi secondo me lo sviluppo della civiltà passa sempre da quel senso di arte, appunto. Di condivisione, quindi, anche sì, artistica. Ragazzi, ultima domanda, un classico di tutte le mie interviste: Ilenor, sindaci di Reggio Calabria per una giornata. Quali sono le prime cose che mettereste in atto subito? Quali sono quelle iniziative che vorreste da subito promuovere? Allora, prima di tutto, per quanto mi riguarda, farei qualcosa per la spazzatura, per le buche sull'asfalto, che sono le cose principali, classico, proprio. Cioè, una cosa che tu esci di casa e non puoi trovarti le buche sull'asfalto oppure la spazzatura a 2 centimetri. Cioè, secondo me ha ragione, è una città bellissima perché abbiamo il mare, la montagna, cosa che, cioè, contemporaneamente, cosa che non si trova da tutte le parti. Però noi tendiamo, diciamo, a svalorizzarla in qualche modo. Vabbè, il nostro problema principale, che il primo da risolvere è molto semplice risolvere, lo sappiamo, sono le persone che amano mangiare con le tasche degli altri. Quindi la prima cosa sarebbe togliere tutti e circondarsi, io come sindaco, circondarmi di persone che facciano la politica solo per passione. Quindi si toglierebbero i soldi, è un minimo stipendio, e chi vuole amministrare la propria città, cosa lo fa per passione, ok? Anche a rimetterci, come facciamo noi musicisti oggi, quindi da lì poi sarebbe tutto automatico. Potremmo pensare, vabbè, a uno stipendio minimo, un partito già l'ha provato, il reddito minimo, anche, non lo so, vabbè. Vabbè, da noi ci sarebbe semplicemente iniziare a percorrere tutte le strade, iniziare a dire ok, qua buttiamo giù, qua rifacciamo, e andare avanti così direttamente. Dare lavoro anche ai giovani, ma anche alle persone di una certa età che ancora non riescono a trovare lavoro, e questa è la cosa più triste. Noi parliamo dei giovani, ma c'è gente, certo, magari con famiglia, che ancora non ha il lavoro, e questo è davvero triste. C'è stato tempo fa un'intervista in cui un artista, un musicista, ha detto: vorrei togliere tutti i politici e mettere solo musicisti al potere, con l'occhio dell'arte. Ragazzi, ringraziamo i Lenor che sono stati con noi, che ci hanno concesso questi minuti, e noi ritorniamo tra pochissimo, dopo un piccolo spazio musicale, alla cena dei Reggini. A tra poco. Thank you. Ragazzi, bentornati alla cena dei Regini, l'angolo caldissimo delle notizie, quelle notizie strane che tu non hai mai tempo di andarti a trovare online, magari non lo vorresti neanche fare, perché lo devi fare? Lo facciamo noi per te, te le propiniamo e te le becchi, e te le becchi. Il back.it per ascoltare questa puntata, per anche rivedere quelle precedenti e guardare anche il calendario dei eventi, abbiamo detto, delle iniziative che abbiamo a Laos. Ma adesso l'angolo delle notizie, partiamo da una notizia che è molto triste, molto triste. Partiamo da questa nota negativa proprio perché poi ci dobbiamo allietare. Ogni cellulare e tablet praticamente costerà circa 4 euro in più in Italia rispetto ai prezzi attuali, prezzi di mercato. Questo perché per è una tassa che andrà alla SIAE. Grande soddisfazione da Gino Paoli, che è direttore della SIAE, e da altri rinoceronti che campano alle tue spalle da anni, tipo Ennio Morricone, Paolo Conte, Carlo Verdone, Gabriele Salvatores e Paolo Virzì, che alle tue spalle campano grazie ai soldi tuoi. Queste 4 euro che pagherai in più andranno a Gino Paoli, voglio dire, sei fantastico. Gino, dai così. Anche 5 euro per Gino Paoli. Vabbè, che rispetto ai prezzi, 5 euro per ogni cellulare acquistato. Ogni cellulare, ogni tablet, e aumenta ancora di più la tassa per i supporti che hanno più di 64 giga, però vabbè. Quindi, ragazzi, facciamo i complimenti a Gino Paoli, perché grazie, veramente. Grazie. Da domani torneremo carta e penna a scrivere, perché Gino vuole così. Mi raccomando, ragazzi, tenete duro. Ma adesso parliamo di tecnologia, quella vera, quella che ci piace di più. E lui, soprattutto le ragazze attentissime, non si lasceranno scappare Ring Lee. Ring Lee cos'è? È un anello. E già questo alle donne solitamente piace. Solitamente piace già. Ma non solo, perché ha un collegamento Bluetooth al tuo cellulare che ti avvisa quando arriva un'email, un SMS o qualsiasi messaggio. Quindi tu stai là a fare le tue cose di donna, quindi non so, fare la spesa, uccidere un uomo, fare lavorare, eccetera. D'improvviso si illumina l'anello, tipo bat segnale, e sai che ti è arrivata una mail oppure un SMS. Però ci sono anche cose che si fanno con molto rigore e molto criterio. Ad esempio, è stato definito in maniera scientifica il metodo migliore per tagliare una torta, perché è una cosa che facciamo tutti ogni giorno. La torta tu come la tagli solitamente? Fai, non la taglio perché faccio di tartri. la visione tipica è la fetta a triangolo, sì. No, la cosa invece... E invece no, lui si chiama Alex Bellos, è uno scrittore e giornalista britannico, e basandosi su alcune ricerche matematiche dell'antropologo esploratore Francis Galton, ha elaborato il metodo migliore per tagliare una torta. Ovvero lui dice: anziché fare la fetta, io taglio una striscia centrale, la divido la torta a metà, quindi faccio una croce, quattro parti, e utilizzo la fetta centrale e poi riassemblo la torta mettendo le parti insieme. In questa maniera ogni fetta ha la sua dimensione giusta, e non solo, dice, ottima anche per conservarla, perché solitamente la torta tagliata l'interno si rinsecchisce un pochettino, e invece così è perfetto. La striscia centrale, totale, proprio tutta. È una striscia lunghissima, rettangolare, però dice, è quella sempre col grado di conservazione migliore, quindi te la puoi gustare. Ragazzi, come farne a meno? Bisogna anche dedicarsi a queste cose. È molto raro effettivamente. Avremmo? Dico, se avessimo, prendendolo prima, dico, provavamo a farlo prima. No, ragazzi, è tardi ormai, bisogna. Noi ormai siamo persi. Bisogna guardare avanti. Ad esempio, lo sta facendo questo signore indiano. Lui è da 25 anni che ha fatto un piccolissimo fioretto a favore di una realtà. La sua idea sarebbe far conquistare al mondo la pace nel mondo, cioè la pace totale. Lui si chiama Manitan. Da 25 anni cammina all'indietro, cioè fa un walk continuo per ottenere la pace del mondo. Il suo fioretto, cioè, voi cosa fareste? La pace del mondo, ragazzi, non è una cosa da poco. Una cosa che fareste per la pace del mondo. Semplice, sterminare la razza umana, poi non c'è più. Sterminare la razza umana, quindi il suo fioretto è dedicarsi all'apocalisse, praticamente, insomma. che è, no? Ha già trovato delle altre cose, una più, una cosa... Io per la pace del mondo, per il bene dell'universo, di questo mondo, di tutta l'umanità, mi farei dare un euro a testa tutti i giorni a tutti quelli che incontro per strada. Per il bene del mondo però, tranquillamente. Ah, ok. Questo è un calcio ogni persona che incontra. Può essere che sarai candidato alle prossime politiche e diventerai sindaco di Reggio Calabria, ma comunque no, neanche da meno 10 euro a persona bisogna aumentare le quote. Un euro ancora troppo umile, Bac. Poi bene, l'80 e divento presidente del consiglio. Ragazzi, ci avviciniamo alla zona finale, quella la più piccantella, ma ancora una notizia abbastanza tranquilla, per quanto una dei problemi, delle paure ricorrenti, soprattutto degli uomini, è il tradimento, ovvero essere, come si suol dire, cornuti. Ma lui l'ha realizzato, lui si chiama Li Ziping, e oggi ha 62 anni, dal 1980 gli crescono le corna, o per meglio dire un corno che sta dietro il collo, lo deve tagliare due volte l'anno. Addirittura ha provato anche delle cure per migliorare la situazione che l'hanno peggiorata, quindi da... Chiedere il divorzio no? Ragazzi, è veramente incredibile, gli cresce questo corno da qua che gli spunta così, è arrivato ad essere lungo anche 15 cm. È una specie di osso scurognolo che gli esce qua dietro. Cina, quelle zone di alta qualità. Industriale, ovviamente. Perché comunque si stanno attrezzando, loro che hanno inventato i Pokémon e quant'altro si stanno evolvendo. Ci conquisteranno. Non lo saprei, ragazzi. Bollino rosso, una notizia veramente simpatica a chiusura di quest'angolo delle notizie. È andato uno studente è andato in visita in Germania ha incontrato il gusto dell'arte, cioè di anche guardarla da vicino, però ne è rimasto incastrato all'interno. Peccato che la statua da quale è rimasto incastrato era un'enorme pagina di pietra, e quindi lui è rimasto incastrato all'interno di questa enorme statua, che tra l'altro è opera orientale intitolata P. Kachan, ovvero fare l'amore, che tra l'altro ha una suonanza, un Pikachu che mi droppa, non vorrei dire, però forse c'è qualche messaggio subliminale. Probabile. Possiamo dire, tornando dalla Germania, si è sentito rinato. Diciamo che questa persona probabilmente avrà un cattivo rapporto con determinate condizioni. Queste dibattute ne faranno tante a lui, d'ora in poi. Questa è una statua peruviana che si trova là, e lui, uno studente americano, ha provato, dice, a entrarci dentro per avere quella sensazione, fare il percorso inverso, e pensa che 5 auto dei vigili del fuoco per tirarlo fuori da là dentro. È stato un parto durissimo a quanto pare. Ragazzi, essere studenti è anche questo, la curiosità, la voglia di riscoprire certi antichi. Ah, boh. Voleva fare un tuffo nel passato, un tuffo nel passato al contrario, e gli è andata un po' male. Come sono i viaggi che ho fatto per arrivare? Memorie dal passato. Ragazzi, noi torniamo dopo il piccolo spazio musicale alla cena dei regini, a tra poco. Thank you. You never will eat a part of me. Crawl and try to make it to the door. You never will eat a part of me. Bentornati alla cena dei regini, l'angolo della classifica. Abbiamo detto 50 puntate assieme, 50 puntate che tu puoi ritrovare su ilback.it, riguardarle tutte, riascoltarle tutte, vedere ad esempio le puntate storiche, quelle memorabili. E a tal proposito, visto che è successo veramente di tutto in queste puntate, la classifica di questa sera è i 10 momenti indimenticabili della cena dei regini, perché abbiamo visto di tutto, ragazzi, ognuno ha il suo momento particolare, quindi io ho paura. Aspettate, perché io inizio a dire questi 10 momenti che sono secondo me quelli un po' più salienti da commentare, poi aggiungerete con calma i vostri. Io con la logica ce l'ho già. Che ne sai? Scusa. Già cose sue, cioè, già. Vabbè, va bene così. Alla numero 10, ragazzi, non potevo ometterla, la classifica delle 10 piccole bugie donne e uomini. Tante furono le classifiche, ma mai così combattute come quella sulle 10 piccole bugie che dicono le donne. La registrazione doveva avere una durata massima di 10 minuti e ne durò 45. Ragazzi, veramente. Cioè, dov'è che chiudevo, andavo a dormire e il giorno dopo li ritrovavo qua. Che tu scherzi, secondo me se non dicevi basta... Continua a parlare, basta, continua quella classifica prese tantissimo e fu veramente straordinaria. Cioè, all'interno di tutte le classifiche, secondo me era quella che prese di più. Poi chiaramente ci sono state altre momenti di aggregazione, però comunque alla numero 9, e pochi se li ricorderanno perché loro mi sa che ancora non facevano parte della cena dei regini, il gioco indovina chi sono a cena, il gioco meno riuscito della storia radio televisiva italiana. Ragazzi, cos'è questo? Indovina chi sono a cena, un suono random creato da Andrea alla fine delle riprese che la gente doveva indovinare, e poi alla fine una volta lo indovinò Panda da casa. E poi però non avevo partecipato, non ho potuto, e ha vinto lui, cioè, e poi è venuto la cena dopo. Vabbè, non è che ragazzi ragazzi, la house è bellina, la cena funziona, eccetera, ma ci sarà qualcosa che non fu, cioè che un passo falso. Ecco, questo era il gioco. Indovina chi suona a cena. Questo è il gioco peggio riuscito della storia radio televisiva italiana, ragazzi. Raffaella Carrà non ce ne vorrà, però è andata così. E poi continuiamo alla numero 8, grande esperienza, la cena al buio. Tra le cene a tema, la più particolare è contestata. Contestata perché qualcuno si ricorderà quando creai la cena al buio su internet, qualcuno diciamo, mi scrisse: ah no, stai copiando una mia idea del 45 che io volevo già fare. Ma che cazzo vuoi? Ma se la cena si fa una volta a settimana, è quella, c'è un tema, è questo, basta, zitta, partecipa, vieni, siediti, rilassati, goditi la tua vita. Ne faremo altre, anche cena al buio, rilassati. Alla numero 7, serata tra l'altro fu straordinaria, perché ricordiamo, io chiedevo cosa state mangiando, loro erano bendati, cosa state mangiando, loro mi hanno detto le cose più disparate, stanno mangiando tipo verdure, no, sto mangiando dei buonissimi gamberetti speziati thailandesi originali, eccetera. Magia della fantasia, ragazzi, fatelo anche voi a casa, la cena al buio. Poi vedremo le altre. Alla numero 7, serata storica, serata che qualcuno ricorderà, c'erano ancora i video sui cellulari, secondo me, Halloween 2013 a Reggio Calabria, spasso con la morte. Quale idea, una serata di Halloween indimenticabile, una scusa per passeggiare sul corso in pigiama, perché quello, sinceramente avevo spacciato un pigiama per il vestito da Gomez della famiglia Adams, e andavo in giro in pigiama assieme a me l'Eugenio dei tempi, che era vestito da morte e che ebbe un successo sinceramente strepitoso. Cioè, le persone lo fermavano per farsi le foto con lui vestito da morte, e fu la sua. E abbiamo attraversato il corso così, con vari attestati di felicità e via dicendo. È un vestito da morte. Un vestito da maschera con scheletro e falce. Eugenio. però non si vedeva la faccia. Salutiamo Eugenio che sicuramente ci guarda da casa. Ragazzi, continuando sempre per questi punti, io vado veloce perché dico intanto queste, poi da ognuno di voi magari una cercherò uno spunto. Andando più avanti, alla numero 6 ha fatto grande successo sul web, è stato il... Io forse ho capito qual è? È stato lui il protagonista, il gran panettone Maina, il gran panettone, quell'inconfondibile gusto, ecco. Distrutto, ha conquistato il cuore dei reggini. Abitanti immaginari, sì, della città immaginaria, che quindi vedono un uomo che mangia un panettone insieme ai suoi amici, e questa cosa fece un sacco di gran panettone senza canditi, e quindi questo video assolutamente non senso, fece scalpore e via dicendo. Che bella serata che è stata, il panettone non era neanche male, e poi ho scoperto che aveva anche dei trascorsi cinematografici col panettone, perché era stato già ripreso in un altro video. Lo stesso panettone. Era sempre lui, era quel panettone, ha fatto 2-3 video su YouTube. Quasi quasi dove me lo ritrovo come ospite a qualche cena. Ciao panettone. Non è che il panettone mangiava te. può essere ragazzi. Alla numero 5, altro periodo natalizio, che poi era quel periodo un po' più ilare, più tranquillo, in cui i ragazzi ancora avevano più svago, diciamo, mentale, e quindi organizzammo la giocata Sì Oscuro Babbo Natale. Niente cattura meglio l'atmosfera di una natalizia di una buona giocata a carte. E che gioco, e che Babbo Natale! Il panda addobbato, bardato da Babbo Natale, e noi a fare questi elfi in questo giochino di carte. Io ancora ricordo l'inizio, come è avvenuto. Così buon gioca Natale, a scarica bello. Buon Natale, buon Natale un cazzo! Sempre, perché è la puntata numero 50, quindi possiamo dedicarci anche a quelle due o tre parolacce che ci siamo dedicati. Metti il beep. No, assolutamente. Quando hai detto addobbato mi hai fatto venire un altro modo in mente. Il panda addobbato. Vabbè, lo vedi che sono dei momenti che poi vengono fuori alla lunga distanza. Ma ragazzi, andiamo avanti. Alla numero 3, l'ospite. Ho scelto uno tra tanti perché, ma adesso poi snoccioliamo meglio. L'ospite è i Sand Statues da New York. Gli ospiti sono stati tanti e importanti, però quella sera l'idea che la cena risuonasse tra le strade di Brooklyn ci fece sognare un po' di più. Questo ragazzo che ha questa band americana, i Sound Status, che mi scrisse dicendo: guarda, vedo che hai passato i miei pezzi, mi mandò tutto il prossimo album in più, ci messimo un attimo a chiacchierare e uscì fuori questa intervista. Lui ovviamente in inglese, io ovviamente quasi ignorante della lingua, perché ovviamente poi ho snocciolato meglio la situazione, e quindi ci siamo messi a dialogare. Quanto è stato bello, grandioso lui, Neil Matarusi. Poi la disponibilità nel parlare con noi, comunque anche con grazie al tuo futuro orario, che magari neanche te... Sì. Veramente è stata una bella serata, è stata veramente una bella chiacchierata. E poi quanto è romantico pensare alla cena tra le strade di Brooklyn, tra quella pizza, quei fumi che escono dai bambini, quell'atmosfera americana, e c'eravamo anche noi, ragazzi. Poi ospiti sono stati tantissimi, quindi poi ne parleremo con calma. Alla numero 2, ragazzi, evento tragico di tutta la cena dei reggini. Loro già sorridono perché hanno capito di cosa si tratta, maledetti. E non è andato in onda, la caduta del professor Uno degli ospiti più importanti della cena dei reggini, una cena che cede ed il momento più imbarazzante mai accaduto intorno a questa tavola, perché lui era qui, il professor Pissias, professore dell'Università di Atene, è venuto qui, sta facendo un ragionamento, sei anche infervorato parlando dell'idrolisi e via dicendo, no? A un certo punto diciamo che si era rilassato un po' troppo dalle sedie e hanno qualche piccolo cedimento. E cadde durante, io che rimasi bloccato, no, a guardare la così. La domanda c'è stata forse la cosa più divertente, non tanto la vedo il professore, perché a me mi dispiace subito, perché siamo stati forse quasi tutti vittima di queste cose delle sedie, di queste cadute. Ma quanto lo faccio, perché si rialza così? Era la però, guru meditation si chiamava. Però, mentre io facevo no! Ragazzi, volete dire un'altra cosa? Spieghiamo intanto che le sedie sono messe a 2 a 2 proprio per evitare questi risultati, perché su questo pavimento vanno a slargare. Ci aggiungo un'ultima cosa, però, perché lui l'ha presa anche molto bene, perché si è subito alzato e ha detto: questa è colpa dell'idrolisi. Parlava in inglese: idrolisi. Grande, grande professor Pizzi, siamo ancora in contatto con lui. Sta facendo una cosa bellissima per il nostro mare Mediterraneo, in continuo contatto, perché sta continuando quel gemellaggio Grecia-Italia che iniziò proprio qui, in quelle due serate che passò qua a Laos, che è stata così protagonista di questa cosa, ragazzi, bellissimo. E adesso la numero uno. La numero uno. Quale sarà il momento storico della cena dei regini, ragazzi? Il sushi. Lui dice il sushi, chi è stato? Chi ha detto il sushi? Lui ha detto il sushi. E a me viene in mente sebbene rischi di essere un pochino ripetitivo, quando esattamente circa un anno fa abbiamo letto i messaggi che hanno scritto le persone durante il Tanabata. Ah, durante l'altro Tanabata, è vero. Che abbiamo letto i messaggi in spagnolo, chi in inglese, chi in giapponese. C'era veramente di tutto, perché durante questa serata la gente può attaccare i messaggi con i buoni propositi per l'anno prossimo nell'albero dell'Aus. Noi li abbiamo letti, ovviamente dando il consenso durante la trasmissione, e è venuto fuori delle cose molto straordinarie. Quindi mi viene in mente questo. Scritto tutto da panda. No, c'era veramente di tutto. Spagnolo, anche perché lo spagnolo non lo so. C'era anche un messaggio che iniziava con quella che poteva sembrare una piccola dichiarazione d'amore a Pusher, che tra l'altro si sarebbe sposato di lì a poco. Quando ho iniziato a leggere, no, calmati ragazzo, che è uno scherzo. Paura, momenti per voi importanti della cena dei regini, che è qua da un po'. Il volo di Luca con le serie. Le sedie sono arrivate. Beh, io sono qui da poco, avrei detto decisamente il professor Pissi. Vabbè, sì. Valeria? No, io non ho. Cioè, per me non è tutto un insieme. Cioè, stare sempre insieme, aver conosciuto belle persone. Infatti, anche il fatto che se ce ne andiamo comunque mi spiace. Cioè, certo. Mi piace la pinuccia, perché comunque sono sempre bei rapporti, persone che ti restano nel cuore. Quindi, quello. Bello, anche perché io lo dico spesso, qua si registra quella che è un'oretta scarsa di trasmissione, poi ci rilassiamo fuori, parliamo, chiacchieriamo e nascono veramente cose incredibili, quindi dai, vabbè. Ma la vedremo anche da... Ma certo che torni, poi lo vedrai anche a distanza. Tutti insieme, per la famiglia, quella è la cosa più... Quanto è bello. Farebbe commuovere anche a me se non fosse che non ho un cuore. In realtà se fosse, il momento più bello era proprio la cena al buio, perché noi non eravamo mai stati qua, ci diremmo ma chissà dove stiamo andando. È vero. Poi dice la prima cena, la cena al buio, 20 anni, sarà una festa, c'è questa cosa strana. No, noi invece siamo arrivati subito dopo la visione della cena. Avete visto quanto eravamo pazzi e detto dobbiamo partecipare. bello. Lasciamo Valeria un attimo e parliamo con Andrea, che sicuramente dirà qualcosa di profonda e intelligente. Vai. No, secondo me la prima cena è nella nuova house. Nella nuova house? Assolutamente. Che era quella più particolare, quando la gente è entrata qua correndo, che andava in giro. Ah, che bella! Hanno iniziato a giocare con le luci, perché ovviamente devono sempre abusare della mia gentilezza. E poi e basta, cioè quello è il momento che tu vedresti. Sì, è stato vedere l'Aus come era prima e l'Aus come era adesso, e mangiarci dentro per la prima volta alla cena. E soprattutto mettermi là a fare tatta con le lucine, perché è bellissimo. Sì, ragazzi, sarà, sei viziato anche per questa trasmissione, ragazzi. Andando avanti, voi da pochissimo siete qua, avete un momento già particolare. Sushi. Modestamente. Abbastanza particolare. Esatto, sushi, ragazzi. un momento ma tutte in generale, tutte quelle tutte sono state tutte momenti particolari, ma come diceva Valeria comunque è un bel momento di aggregazione, si sta bene e questa è la cosa più importante. Bellissimo. Loro sono nuovi, è la prima cena dei regini, quindi io come dico stato... quando parliamo di questa cosa, io prima per uscire l'uscita era quella del sabato, del venerdì, ora adesso è il martedì istituzionale. Loro sono appena arrivati alla cena, è la loro prima cena, quindi avrete spero di farlo. Posso per ritare tempo. la faranno coincidere con questo ricordo un po' triste dell'Italia, però poi una cena tra amici, voglio dire, si è ripreso. Tutte belle le cene, tutte belle le cose, ragazzi. Io vi dico quale avrei messo alla prima posizione a livello personale, perché comunque ci sono stati tantissimi momenti particolari. Tra l'altro ricordo, la cena è diventato un programma radiofonico dopo, perché comunque all'inizio era solo la cena dove si mangiava, eccetera. 3 ore ricordo la prima registrazione che durò, vabbè, lasciamo stare. Alla numero 1, la prima cena in generale, le 3 persone sedute a un tavolo e un pazzo che sarei io che dice: ragazzi, penso sia l'ora di riaprire questo posto. È passato più di un anno da allora e pensa tu. Allora, è stata la data della prima cena? Neanche si ricorda, è scolpita su una tavoletta ellenica che è di là. No, 2013 o 2012? Non me lo ricordo, 2013. No, me lo ricordo, mi sembra di ricordarla ancora di prima. Guarda, è di una semplicità colossale. Se si fa 4 volte al mese per 12-40. No, per capire la prima volta. Un anno? C'è stato di registrazioni, però prima già si faceva la cena in versione solo cena, senza la registrazione del programma. Quella... Io parlo della prima cena, c'eravamo io e altre 2 persone seduti a un tavolo e dissi: oh, perché non riapriamo questo posto? Se non ricordo male, la primissima cena fu a fine 2012. Proprio sul finale del 2012, inizio 2013 sarà stato quel periodo là. E pensa, allora era ancora la vecchia house, eravamo nel vecchio salottino di là, che anche in 3 stavamo pure scomodi perché c'era il tavolo che si muoveva, c'erano 2000 cose, però sono morti di colesterolo. No, uno era no, uno era Pusher, che adesso non c'è, però comunque è rimasto ancora vivo, e l'altra era Lea, che partecipò alle prime cene e poi per motivi non è potuta venire ulteriormente. Ragazzi, quante ne abbiamo combinate? Se posso aggiungere alcune mie che non hai messo. Vai. A parte una più stupida, che è giusto per ricordare, una volta facciamo i bloopers, cioè i fuori scena, e una volta facciamo anche le scenette con le classifiche. Ce n'era una in cui parlavamo dei film horror, e dice cose che ti facevano in un film horror, e c'era Buck che doveva buttare in aria le chiavi e riprenderle in mano. Tu le vedi, tutto convinto, buttare in aria e... L'ho fallito. E quella fu una serata straordinaria, perché noi facevamo delle classifiche per ogni punto, un mini sketch, spezzone, sì. Uno sketch. E abbiamo fatto gli sketch tipici, gli errori tipici dei film horror, sketch dopo sketch. Cioè, vedi una telecamera, ma neanche 10 persone eravamo, e quindi ognuno faceva un ruolo tipico del film horror. E facevo la morte. Lui faceva la morte quella volta, e abbiamo rifatto queste scene. Poi la seconda non è proprio scena dei regini, ma comunque auto back. Era Natale, ed eravamo al comunale, vicino al Bart. E visto che non c'era un albero, mi sono prestato ad essere addobbato tipo albero. Perché c'è stata, il famoso anno quando ci fu quella mega polemica per quell'albero di Natale che non si poteva vedere. Noi siamo andati ad addobbare quell'albero di Natale e non si poteva vedere, invitando, sì, l'anno scorso, c'era già la data. Noi siamo andati dicendo alla gente: noi facciamo questo, ognuno se viene qua e mette una decorazione, comunque l'albero viene una cosa carina e soprattutto fatta da tutti. Quando siamo... No, perché quando siamo arrivati l'albero l'avevano già cestinato, quello d'albero, e allora abbiamo detto: visto che non c'è nessun albero, addobbiamo il panda, così. Cioè la gente che lo poteva addobbare sotto gli occhi critici di Lamberti Castronuovo, che andava in cuore e che gustava la scena inorridito, perché ovviamente, voglio dire, bella scena. Io ricorderei le frasi continuamente dette e ridette alle prime cene, come ad esempio: panda sei mio. No. No. A Avanti. Ricordati che si copre un altarino. Ce la lunga a togliere. Lasciamo stare. Andiamo avanti. E insomma, quante cose, quanti ospiti, quante situazioni. Chissà quante ne vivremo ancora. Altre almeno 50 cene, auguriamocele, perché voglio dire, anche chi l'ascolta da casa le vuole vedere, ma soprattutto ragazzi, un pensiero particolare deve andare a un ospite che sarebbe voluto essere ancora ospite ma non ce l'ha fatta, perché a volte la vita è imprevedibile. Lui è venuto qua, mi sembra per due cene, ha suonato, ha fatto gli intermezzi, quando ancora l'altro, la trasmissione non andava in onda, era un percussionista grandissimo, Nino Ripepi, il maestro, come lo chiamavo io, e lo salutiamo con un applauso. Perché lui venne e si trovò benissimo e voleva tornare per svariati motivi anche al suo lavoro e via dicendo, non abbiamo avuto mai modo di concordare, e mi rimase sempre quel messaggio in cui dice tornerò, guarda, appena è possibile tornerò, e poi purtroppo non ce l'ha fatta. Ragazzi, comunque, la cena dei regini, il Bach.it per seguire anche tutto questo. E noi ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata della Ceneregini, se tutto va bene. E voi seguite gli eventi e tutti i video sul Bach.it. Un saluto dal Bach e dai ragazzi della Cena dei Regini. Ciao. Grazie dell'attenzione, ciao.